Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Purtroppo dovremo farci l'abitudine, almeno per l'anno in corso, mi riferisco ai dati sulla disoccupazione, lo abbiamo già ampiamente detto l'anno scorso, che il 2014, vuoi per una crescita modesta, modestissima, vuoi perché c'è sempre un effetto cinghia e trasmissione più lungo tra quando l'economia riparte e quando invece le aziende iniziano a riassumere, c'è uno spazio temporale abbastanza lungo. Dicevo, per questi due elementi, soprattutto il primo, cioè uno 0,6-0,7% di crescita, non riporterà le aziende a riassumere, casomai potrà forse far rallentare il tasso di disoccupazione, ma non farlo diminuire in senso proprio. Dicevo, dovremmo abituarci che quest'anno batteremo i record, nel senso che l'Istat oggi ci comunica che a febbraio la disoccupazione è al 13%, ossia il tasso più alto sia da quando la misuriamo mensilmente, dal gennaio del 2004, sia da quando la misuriamo ogni 3 mesi, e quindi dal 1977, il che vuol dire che da quando misuriamo la disoccupazione non abbiamo mai raggiunto il 13%. Allora, faccio notare che un anno fa era l'11,8%, l'incremento della disoccupazione italiana su base annua è il più forte nell'area euro, inferiore solo a quello di Cipro e della Grecia, e chiaramente non è un bel riferimento. La disoccupazione nell'area euro è comunque altissima, è al 12%, l'11,9%, e questo, non voglio tornare subito sulle solite polemiche, ma dovrebbe far riflettere sulla ricetta, non sull'euro, ma sulla ricetta che l'area euro ha adottato in questi 2 anni, anche perché in altri paesi la disoccupazione sta calando, penso agli Stati Uniti, penso anche ad altri paesi, solo da noi continua a crescere, non in tutti i paesi. Detto questo, praticamente si è tornati indietro di 14 anni, perché se si va a guardare il tasso di occupazione, cioè tutti quelli che lavorano tra quelli che potrebbero, la disoccupazione invece misura quelli che non lavorano tra quelli che stanno cercando un lavoro, ma se si guarda la platea complessiva di chi potrebbe lavorare, quanti sono occupati, siamo al 55,2%, ossia il tasso che avevamo nel primo trimestre del 2000, 14 anni indietro ci ha riportato. I disoccupati superano i 3.300.000, di questo parleremo subito in apertura, ci sono anche le dichiarazioni del Premier Matteo Renzi da Londra, che ha definito allarmanti, drammatici i dati sulla disoccupazione, sconvolgente il dato. E c'è attesa anche per il disegno di legge sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act. Vedremo di capire anche quali sono le modifiche a questo punto allo studio, soprattutto rispetto alla riforma Fornero e soprattutto per quello che riguarda i contratti a termine e l'apprendistato. Detto questo, è inutile farsi troppe illusioni, alcune cose della Fornero vanno cambiate perché hanno prodotto effetti negativi. La legge aiuta, ma non crea per legge i posti di lavoro. L'unico modo per creare posti di lavoro è avere un'economia che riparte. L'unico modo per far ripartire l'economia, visto che le nostre imprese, quanto a export, hanno ottenuto ottimi risultati, è far ripartire la domanda interna, i consumi. Come ripartono i consumi? Non ci vuole un genio con più soldi in busta paga. E oggi Renzi ha detto che entro 2 settimane arriverà il disegno di legge per il taglio dell'IRPEF, quello degli 80 euro in più in busta paga. Andiamo con ordine, di questo parleremo in apertura, poi tratteremo anche il tema, oltre che della borsa, come sempre, delle immatricolazioni, oggi le immatricolazioni auto in Italia. La Grecia, perché via libera dell'Eurogruppo oggi a nuovi aiuti per Atene, in totale saranno 8 miliardi e 300 milioni di euro. L'Eurogruppo si è tenuto ad Atene, era presente anche il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, ascolteremo anche le sue dichiarazioni su questo. La borsa, dicevo, sempre positiva e sempre migliore della media, Milano più 1%, siamo a 21.898 punti, guadagna, dicevo, lo 0,95, guadagna lo 0,75 Parigi, lo 0,30 Francoforte, lo 0,70 Londra, lo 0,40 l'America. Sempre forte il Monte dei Paschi, dopo l'annuncio ieri della fondazione, abbiamo avuto la presidente Antonella Mansi ospite, di essere sceso al 5%, più 6,20% il Monte dei Paschi, molto forte anche Mediaset, più 5, UbiBanca più 4,80, Popolare Emilia Romagna più 3,5 come la Pop, come la Fiat, scusatemi, e Salvatore Ferragamo più 3% come Autogrill. Il 2,5 lo guadagna Tod's, ma anche World Duty Free e Intesa San Paolo e Mediolanum. Il 2% è il rialzo di Prismian. Chi perde oggi? Solo il Banco Popolare meno 1,5, Campari meno 0,70, Pop Milano mezzo punto percentuale di calo come Saipem. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, partiamo dal gas, perché in realtà qualche tensione si sta registrando sul fronte del prezzo del gas. Che cosa è successo? Nulla di allarmante, però da oggi costa per 1000 metri cubi il gas russo $385, cancellato quindi lo sconto sul gas russo, lo ha annunciato lo stesso amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller, e quindi questo è il prezzo del metano per l'Ucraina. Lo sconto era stato concesso a dicembre all'Ucraina e aveva portato il prezzo da circa $400 a $268. Come risposta, Kiev ha rivisto al rialzo le tariffe per il gas russo che transita invece in Ucraina, le ha rialzate del 10%, per cui insomma, è ancora un botta risposta di carattere economico, ma insomma vuol dire che costerà di più portare il gas in Europa, visto che passa attraverso l'Ucraina. Si diceva dagli Stati Uniti prima sulla disoccupazione, gli indicatori continuano ad arrivare, l'indice manifatturiero, l'indice ISM che monitora l'andamento della manifattura negli Stati Uniti è salito a 53,7 punti a febbraio, ma soprattutto pensate a Manhattan, dove pur la crisi immobiliare si era sentita in maniera pesante nel 2008, ormai siamo a nuovi record sui prezzi delle case, siamo ai massimi da 7 anni a questa parte. I prezzi da record, $1,363 per 0,09 metri quadrati. Non so cosa ci sta in 0,09 metri quadrati, la cuccia di un cagnolino. E $1,363. Il prezzo medio di un appartamento a Manhattan è schizzato a $972,500 nel primo trimestre dell'anno, è il 18% in più rispetto a un anno prima, siamo ancora sotto di un 5% rispetto ai massimi del 2008, ma vuol dire che insomma, l'America praticamente ha recuperato tutto, perfino, chiaramente non in tutte le parti dell'America, ma perfino nei valori immobiliari più pompati, che erano quelli appunto di Manhattan. Della Grecia, dicevo, via libera dell'Eurogruppo, 8,3 miliardi di aiuti per la Grecia. Mario Draghi ha detto la Grecia è un paese che ha sofferto molto ma che vede i primi benefici del programma che ha intrapreso, c'è una ripresa dell'area euro graduale anche se modesta. E poi Olli Rehn, il commissario degli affari economico monetari, ha detto la ripresa sta guadagnando terreno ma ci preoccupa il periodo di bassa inflazione. E poi ha continuato Rehn, fiducia che l'Italia rispetterà gli impegni e farà le riforme per favorire l'occupazione rispettando allo stesso tempo i vincoli di bilancio. Visto che parlavamo della disoccupazione, è interessante notare come invece in Germania la disoccupazione a marzo sia stabile al 6,7%, e con un calo delle persone senza lavoro di 12.000 unità, che è migliore dell'attesa degli analisti. L'Italia, il nostro spread resta in ottime. Sto guardando un ascoltatore che dice che in 0,09 metri quadri ci sta solo Dudu. Ho detto appunto ci può stare un cagnolino. Ma tornando all'Italia, mentre resta più che buono il nostro spread a 171 punti, il rendimento dei nostri BTP a 10 anni è del 3,29%. E questo, diciamo, è la cosa, la notizia migliore a cui assistiamo in questo periodo, assieme, se vogliamo, ai dati sull'export. Mi chiedete quant'è la disoccupazione giovanile, adesso vi arriviamo, è il primo tema di approfondimento. Comunque è al 42,3%, ci sono 680.000 giovani in cerca di lavoro, e la Confesercenti, avremo ospite anche la Confesercenti, fa notare come in un sondaggio fatto con l'SVG la disoccupazione sia un incubo per 6 italiani su 10. L'incontro tra Renzi e Cameron, anche di questo parleremo. C'è una dichiarazione che riguarda anche i dati di oggi. Renzi ha annunciato che, da un lato, lo ha detto in un'intervista che andrà in onda poi stasera a Ballarò, che tra 2 settimane arriverà il disegno di legge per il taglio dell'IRPEF. Le coperture sono già più del doppio di quelle che servirebbero, va scelto dove metterle, come e quando. Non vi saranno nuove tasse. L'IRAP, per quello che riguarda, dice pareggia l'intervento sulle rendite, e ancora conferma che a maggio arriveranno 80 euro in busta paga. La musica è cambiata, pagano i politici, i cittadini riscuotono. E poi l'Italia può ripartire, ma non deve perdere un minuto sulle riforme istituzionali e sulla riforma del mercato del lavoro. Ci sono dei segnali di ripresa, iniziano adesso i segnali di ripresa, non sono sufficienti, perché accanto ai segnali di ripresa occorre che l'Italia faccia tutto quello che deve fare. Ecco perché è fondamentale correre sulle riforme. Spero che si capisca che la voglia di correre sulle riforme non nasce da un bisogno personale, ma dalla necessità di dare risposte concrete al Paese. Subito dopo il grande investimento sulle politiche per il lavoro, contemporaneamente la semplificazione della pubblica amministrazione, e io sono convinto che con questo scenario allora l'Italia può ripartire, però c'è bisogno di correre e di non perdere neanche un minuto. Però, come dicevamo, la disoccupazione è al record da quando la misuriamo: 13% di chi può lavorare non riesce a trovare lavoro. La occupazione, cioè tra tutti quelli che potrebbero lavorare, anche tra quelli che non lo cercano, è al 55%. Abbiamo fatto un salto indietro di 14 anni. I dati, già li ricordavo, i disoccupati superano i 3.300.000, con 365.000 occupati in meno nel giro di un anno. Ci siamo mangiati una città delle dimensioni di Firenze, bambini e anziani inclusi, o di Bologna, nell'arco di un solo anno. Non a caso la Confesercenti commissiona un sondaggio all'SVG e viene fuori che l'incubo per 6 italiani su 10 è la perdita del posto di lavoro per sé o per un familiare. 1 su 4 ha ammesso di avere molto paura di un nuovo disoccupato in famiglia. Il dato è definito sconvolgente dal Premier Matteo Renzi. Beh, è un dato che purtroppo sta in linea a quello che sta accadendo da diversi mesi, è un dato sconvolgente. Vedevo venendo qua i dati della disoccupazione, in questo caso complessiva, di inglesi e italiani negli ultimi 3 anni, vedevo nelle graduatorie comparate 2011, 12 e 13, sostanzialmente partivamo dallo stesso livello, 8%, loro sono al 7,6, noi siamo al 12 e rotti, e sulla disoccupazione giovanile noi partivamo 2 anni fa dal 29, loro dal 21, loro sono ancora al 21, noi siamo al 42,3, se ho visto bene i dati dell'Istat di oggi, con 365.000 posti in meno in un anno, che anche simbolicamente 365.000 per 365 giorni sono 1.000 posti al giorno che perdiamo, quindi è evidente che questo è il problema. Sì, si può fare anche un passaggio in più nell'analisi e dire: la Gran Bretagna non è che ha diminuito la disoccupazione perché non ha l'euro, se no non si spiegherebbe, ma perché non ha avuto le politiche adottate dall'area euro, quindi aumento della pressione fiscale per sto benedetto deficit al 3%, riduzione di qualunque investimento anche per il patto di stabilità interno, per cui anche i comuni virtuosi non possono spendere, rifiuto da parte dei paesi del nord Europa e della Germania di considerare che esiste un deficit fatto per investimenti, quindi un deficit buono, e invece c'è un deficit fatto per la spesa e basta, che è un deficit cattivo, insomma tutto quello, rifiuto di avere mai nella vita le obbligazioni di carattere europeo, quindi un indebitamento che diventi un eurobond e non un indebitamento solo di un singolo paese, insomma tutto quello. La Gran Bretagna non è che non ha l'euro, non ha il deficit al 3%, ha potuto tranquillamente avere il deficit che voleva, l'America ce l'ha superiore al 6%, quindi è questo il vero tema se vogliamo ragionare. Se poi piace lo slogan che è tutta colpa dell'euro, va bene, continuiamo a fare, capito, come se fossimo allo stadio. Renzi sul lavoro: si è persa troppa strada, occorre rimettersi a correre. Oggi commentavo con i giornalisti italiani e poi ne abbiamo parlato con David i numeri della disoccupazione. 2011, UK disoccupazione 8%, Italia 8,4%. 2013, UK 7%, Italia 12,3%. Cosa è successo? In questi tre anni abbiamo perso troppa strada e adesso è arrivato il momento di rimettersi a correre con delle performance economiche che sono valide, possibili, e con una collaborazione e un sguardo insieme condiviso con l'Unione Europea e con i nostri partner, che sia finalmente basato sulla crescita e non sulla burocrazia. Allora, poi affronteremo anche il tema del Jobs Act e di quello che ha detto oggi Renzi sulle riforme possibili, però vorrei restare sul dato di oggi e vorrei farlo con, da un lato, Domenico De Masi, che è sociologo ed è preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Buonasera, professore. Buonasera. E dall'altra col presidente della Confesercenti Rete Imprese Italia, Marco Venturi. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, perché la Confesercenti? Perché voi oggi avete pubblicato un sondaggio fatto assieme alla SVG in cui emerge, uno può dire avete scoperto l'acqua calda, beh, però quando vedi le cifre è un po' diverso, che la disoccupazione non sia solo una preoccupazione delle famiglie italiane, sia l'incubo vero e proprio. Venturi? Sì, beh certo, quando abbiamo dati come quello della disoccupazione giovanile al 42,3%, credo che questo deve preoccupare tutti noi. Parliamo di 680.000 giovani che sono in cerca di lavoro ma che non lo trovano, e quindi la disoccupazione è diventata un incubo per 6 italiani su 10, ma i motivi sono molto concreti, non è una paura del futuro, c'è una situazione attuale difficile, c'è la preoccupazione anche rispetto alle prospettive, quindi questo ci porta appunto ad avere questa sfiducia anche rispetto alle possibilità anche di crescita del nostro paese, di soluzione di questi problemi che ci sono. Quindi il governo, il Parlamento hanno il dovere di impegnarsi per dare una prospettiva, diciamo, a questi giovani, e è chiaro che il meccanismo principale per risolvere questi problemi sono le imprese. Allora, se noi ci troviamo di fronte a chiusure di imprese continuamente ogni anno con un saldo negativo fortissimo, 362.000 imprese che hanno, piccole e medie imprese che hanno chiuso l'anno scorso, poi ne hanno aperto altre, ma abbiamo avuto un saldo negativo di 42.000, quest'anno stiamo andando in una maniera analoga. Quindi se noi bruciamo imprese, bruciamo lavoro, bruciamo ricchezza di questo paese, quindi dobbiamo fare delle politiche che tengono conto di questi fattori e quindi rimettono in moto il nostro paese. Allora, su questo vorrei dire alcune cose. Arriveremo alla Gran Bretagna, perché è vero che la Gran Bretagna, oltre che non avere i vincoli di Maastricht e poter fare quello che vuole del deficit, ha ridotto la spesa pubblica di 16, ve lo memoria, miliardi di sterline, e ha anche espulso, diciamo, dal mercato del lavoro decine di migliaia di dipendenti pubblici. E quindi non ci sono solo le tasse e non c'è solo il vincolo del 3% sul deficit, ci sono anche le cose che non abbiamo fatto noi, lo diciamo sempre. Però attenzione, basta che non mi diciate che la Gran Bretagna va meglio perché non ha l'euro, perché questa è una grandissima cavolata che non spiega perché alcuni paesi abbiano disoccupazione bassa nonostante l'euro. De Masi, questo è un tema, per quello che ho voluto lei come sociologo, che ormai esce a mio avviso dal dato statistico economico, perché come ricordavo all'inizio dobbiamo abituarci, stante tutte le previsioni che abbiamo in mano, che la disoccupazione continuerà a fare record, di record in record nei prossimi mesi, cioè la crescita è troppo bassa per cambiare rotta a disoccupazione e comunque ci vuole più tempo come cinghia di trasmissione anche quando la crescita dovesse diventare più alta. Secondo lei come si esce da un problema che diventa non più solo di dato statistico, ma come nota anche la Confesercenti, di atteggiamento psicologico verso il futuro? Ma intanto voglio mettere in chiaro che fatto 100 la produzione del pianeta, noi produciamo il 3,2 e l'Inghilterra produce il 3,1, quindi comunque siamo un paese che forse ha anche disoccupazione perché c'è stata una fortissima rinnovazione di tutti gli strumenti produttivi, perché bisogna tener conto che due cose: anzitutto che anche se fosse il 7% sarebbe una disoccupazione sconvolgente. Naturalmente il 12 o il 13 lo è ancora di più, è il doppio, però già il 7% è molto. Non ci stiamo abituando a cifre altissime e le consideriamo quasi normali o quasi un'aspirazione. La seconda cosa di cui bisogna tener conto è che gran parte della disoccupazione deriva dal progresso, perché ogni progresso fa le sue vittime, bisogna tenerne conto. Il progresso tecnologico, la globalizzazione, l'innovazione organizzativa si scontano in chiave di disoccupazione. Aumentare la produttività significa produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano. La Confesercenti è un'organizzazione serissima. Anche con un lavoro più efficiente, no? Non solo con meno lavoro, con meno pause, meno permessi, cioè un lavoro più efficiente. Tutta quella roba lì, cioè praticamente lavorare in condizioni meno agevoli. Però bisogna tenere conto che è di lì che viene. Per esempio, molte aziende commerciali hanno chiuso, però molti di queste hanno chiuso perché hanno aperto dei centri commerciali. Un centro commerciale crea un posto di lavoro e ne distrugge 7. Per cui spesso la modernizzazione fatta in modo non attento alle conseguenze occupazionali provoca disoccupazione. Noi non possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca. Non possiamo avere grande efficienza e grande occupazione senza ridurre gli orari di lavoro. Non è possibile, sono tre elementi che... Però mi scusi De Masi, ho capito il suo ragionamento, però questo non spiega perché in altri paesi è vero come lei dice che anche il 7 è alto, però abbiamo la Germania che ha 6,5, 6,7, la Gran Bretagna è scesa al 7, cioè noi eravamo arrivati prima dello scoppio della crisi una disoccupazione che viaggiava verso il 7, intorno al 7%. Per cui, insomma, già quello, poi ho capito, c'è sempre un tasso di disoccupazione dovuto alle rivoluzioni, ai mutamenti, quello ci mancherebbe. Però qui c'è una componente patologica, non solo fisiologica, nella disoccupazione. Dunque, quando un sistema economico è globalizzato, cioè fatto a basi comunicanti, qualcuno va male proprio perché qualche altro va bene. Non possono andare bene tutti, questo bisogna capire. Altrimenti non ne usciamo, perché guardi, tutti i ragionamenti sulla disoccupazione sono tutti contrastati dalla realtà. Certo, in un sistema economico globalizzato, se la Germania va molto bene significa che vende al posto nostro, ma se non vende lei vendiamo noi, sono disoccupati lì. Se si vede il problema in chiave di sistema globale, guardi che il problema dell'occupazione è aggredito in modo sbagliato, cioè si dà per scontato che sia naturale il 7-8-9% sia addirittura una vittoria, mentre una tragedia per il 7% della popolazione, e si dà per scontato che si possa vincere con la crescita. La crescita è indispensabile, ma spesso la crescita si sconta con ulteriore disoccupazione. Negli ultimi mesi la disoccupazione è cresciuta proprio nelle regioni italiane dove è diminuita la crisi, perché spesso quando io imprenditore ho dei soldi compro delle macchine anziché comprare degli uomini, non so se è chiaro. No, questo è chiaro. La cosa è molto più complessa di quanto... Infatti io tenderei a distinguere tra, diciamo, i rimedi nel breve medio per riportare la disoccupazione non più a record e invece una prospettiva più strutturale di lungo termine. Dopo il metro pubblicità vorrei sentire prima Venturi e poi di nuovo De Masi sulle soluzioni possibili, perché De Masi dice attenzione che nel momento in cui ripartono gli investimenti spesso uno preferisce fare un investimento su un macchinario, su un'innovazione tecnologica, su una rete commerciale piuttosto che assumere nuovi dipendenti. Però dall'altro noi sappiamo, Venturi, e la risposta dopo il meteo, che qui c'è un problema, cioè che il grosso della disoccupazione si genera in quelle imprese che hanno prevalentemente come sbocco il mercato interno italiano, nel senso che quelle che sono legate all'export, e ne conosciamo migliaia ormai, che esportano tra il 65 e il 75% della produzione, voglio dire, se anche i consumi italiani calano, loro ormai hanno 2/3 del fatturato che viene fatto altrove. Altra cosa invece per chi è in versione opposta, cioè che ha la maggior parte del fatturato, piccoli commercianti, artigiani, anche piccoli imprenditori, dentro i consumi italiani. Le vostre soluzioni dopo il meteo e la pubblicità? 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Presidente Venturi, teniamo divise i due ragionamenti, perché a mio avviso c'è un elemento patologico in questa disoccupazione a cui va messo mano subito con iniziative concrete, e poi c'è un elemento più strutturale su cui vorrei sentire quali soluzioni ha Domenico De Masi. Come facciamo a ripartire l'occupazione per quelle aziende esposte sui consumi sul mercato interno? Ma innanzitutto io vorrei sottolineare che se non riusciamo a creare condizioni per una crescita adeguata del nostro paese, ci troviamo in coda, cioè la Grecia è previsto crescere al 2,9%, la Grecia che ci ricordiamo che stava saltando in aria se non interveniva l'Unione Europea. L'Italia l'aspettativa, quindi passiamo dal territorio negativo a quello positivo, dello 0,6%, quindi noi continueremo a non crescere. C'è un elemento che non funziona, diciamo, nel nostro paese, no? E non è solo il mezzogiorno, perché anche lì è, diciamo, in qualche modo è una situazione difficile che quindi tutto il paese in qualche modo si trova ad affrontare, ma poi non riusciamo a fare una serie di politiche che sono necessarie, non solo quindi la stessa riforma del lavoro, non solo le riforme della pubblica amministrazione, tutto come è stato annunciato, ma per esempio non riusciamo a sfruttare alcuni beni di grande rilevanza che noi abbiamo. Cito il turismo. Noi abbiamo una stagionalità più breve di paesi del nord dell'Europa, ma non è possibile, non possiamo non fare una politica del turismo, non possiamo delegare tutto il turismo alle regioni e non c'è una politica nazionale del turismo, non abbiamo un portale Italia. Ma questo è un esempio per dire che se noi non aggiustiamo il tiro, se noi i giovani vanno all'università ma più intesa come parcheggio che come prospettiva di lavoro, se non creiamo quindi tutte le condizioni positive per ribaltare, quindi semplificazione della pubblica amministrazione, oltre la partita fiscale, perché se continuiamo a spendere così e a creare nuovo debito è chiaro che poi bisogna pareggiare aumentando il prelievo fiscale, ma questo ormai per le imprese non è più sostenibile, soprattutto per le piccole e medie imprese. E allora se vogliamo invertire questa situazione, se vogliamo crescere almeno come la Grecia, quindi per non avere grandissime ambizioni, dobbiamo avere il coraggio di affrontare quindi tutti questi nodi, delle riforme, dalla pubblica amministrazione al lavoro, all'energia, che è un altro dei temi appunto molto rilevanti, e poi puntiamo sul turismo. Abbiamo un tesoro e facciamo finta di non averlo. Sì, oddio, con quello che leggiamo su Pompei e non solo, che raccontiamo anche tutti i giorni, mi sembra, certo, che si vada in direzione. Ma abbiamo delegato tutto però alle regioni, non c'è una politica nazionale, non è possibile, non è accettabile. Diciamo, quelle regionali si devono sommare con le politiche. Venturi, in una battuta, però, insomma, gli 80 euro, ammesso che arrivino a maggio in busta paga, serviranno o no? tutto fa brodo, come si dice, ma non è quella la soluzione, è chiaro, no. Quello è un passo, aiuta, quindi darà una boccata di ossigeno, ma non modifica quelle situazioni di cui abbiamo parlato adesso, quindi se noi non interveniamo, ma credo che mano a mano, perlomeno negli incontri, io ho incontrato come Rete Impresa Italia vari ministri, dal lavoro alla semplificazione, all'economia e così via, dove abbiamo posto i problemi. Mi pare che c'è una sensibilità da parte dei ministri, adesso bisogna vedere se riusciamo poi a fare degli atti concreti che ci consentono da uscire da questo tunnel. Allora, De Masi, immaginando che alcune iniziative del governo possono far aumentare anche un po' la crescita economica, facciano ripartire i consumi, devo dire che un vantaggio che abbiamo in questo momento è uno spread a 170 punti, che vuol dire pagare poco gli interessi sul nostro debito e avere anche, devo dire, un certo interesse da parte dei fondi di investimento internazionali per l'Italia. Io non credo alla teoria della svendita, credo alla teoria che si va a comprare a prezzi abbastanza buoni, ma un paese che risulta più affidabile nello scenario complessivo, vedi appunto lo spread. Per il medio termine invece? Ma intanto io sono perfettamente d'accordo con il presidente Venturi proprio su tutte le cose che ha proposto e le appoggio pienamente. Si pensi che la Francia ha il doppio, più del doppio del nostro del numero di turisti ed ha 380.000 posti letto in meno di noi, però ha una saturazione che supera il 50%, mentre da noi la saturazione nel sud, dove quindi il clima consentirebbe di allungare le stagioni turistiche, e la saturazione è solo del 26%, è una follia, veramente la nostra capacità organizzativa del turismo è praticamente vicina a zero. Ma però lei mi chiedeva di guardare un poco più a medio lungo termine. A medio e lungo termine bisogna tenere conto che il lavoro, se lo consideriamo come una merce qualunque, so che è una merce particolarmente dignitosa e prelibata, ma se lo consideriamo come una merce qualunque, è una merce che non cresce in proporzione a chi lo desidera. Cioè la domanda di lavoro cresce molto, mentre il lavoro disponibile cresce pochissimo. È come una torta che non cresce quasi nulla, ma sono sempre più le persone che vorrebbero mangiarla. A questo punto la logica vorrebbe che si riducessero i bocconi, non c'è altro, cioè che si riducesse la quantità di lavoro. Oggi avere un lavoro è un privilegio, avere un lavoro per 10 ore è addirittura un privilegio straordinario. Abbiamo genitori che lavorano 10 ore al giorno e figli completamente disoccupati. Come si capisce, questa è una follia naturalmente, bisogna ridistribuire il lavoro così come si deve ridistribuire il sapere, il potere, le opportunità, le tutele. E secondo lei la riforma della Fornero, Fornero, era una follia, no, era precisamente l'opposto, allungava il lavoro. No, dico, mettere mano alla Fornero, della Fornero col Jobs Act può servire a qualcosa? No, secondo me non mai in questo senso qui, assolutamente, non è la corsia che dico io, è un'altra corsia, potrà portare anche qualcosa di positivo. Per esempio, non si può allungare l'età di pensionamento senza tener conto che a parità di ore di lavoro naturalmente saranno i giovani a soffrirne, è una cosa matematica, c'è poco da fare. Questa merce lavoro va divisa, come va divisa la ricchezza, non c'è possibile che ci siano strabiliardari e persone che muoiono di fame, così non è possibile che la mattina suoni la sveglia, il padre esca di casa e ritorni la sera tardi dopo aver fatto straordinario e il figlio invece resta in casa tutto il giorno senza far nulla. Sono follie, è una società che non riesce a capire qual è la corsia da imboccare, è una società senza modello. Grazie. Oddio, i temi sono chiaramente non allegri, ma grazie al presidente di Confesercenti Marco Venturi e al sociologo Domenico De Masi. Dopo il traffico noi restiamo su Renzi, ma in realtà per parlare di quello che è stato l'oggetto dell'incontro con Cameron, molti di voi hanno trovato un po' singolare che lui dicesse David. Sì, vabbè, però non soffermiamoci solo sulla parte, diciamo, estetica, andiamo anche alla sostanza. Uno lo può chiamare Davide, lo può chiamare Cameron, ognuno può avere lo stile che vuole, a me interessa che arrivino sti provvedimenti. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Credo che sia molto importante presentare un processo di riforme per il nostro paese che sia la condizione per l'Italia per affrontare insieme le riforme di cui l'Europa ha bisogno. L'Italia deve essere più semplice, l'Italia deve migliorare se stessa, l'Italia deve fare la propria parte. Se l'Italia fa la propria parte, poi è in grado, assieme a tutti i partner e in particolar modo ai partner storici, di creare un'Europa diversa. I think we want a better Europe, not more Europe, a better Europe. Questa settimana in Gran Bretagna stiamo portando dei grossi cambiamenti da generazione a questa parte sul nostro sistema fiscale, compresa l'aliquota al 21% per le imprese. E io sostengo gli impegni di Matteo per le riforme ambiziose in Italia che rafforzeranno l'economia nel Paese, incoraggeranno gli investimenti e aiuteranno i lavoratori. Vogliamo collaborare anche per rendere più competitiva l'Unione Europea. L'Europa arranca dietro l'Asia. E ci devono essere riforme anche a Bruxelles. L'Italia avrà la presidenza dell'Unione Europea, che è estremamente importante. Matteo, so che vuole fare della crescita e dell'occupazione un tema essenziale in Italia, e oggi abbiamo concordato che ci dovrà essere un grosso interesse su questo in Europa. Eliminare la burocrazia, completare il mercato unico dell'energia. Queste sono tutte cose su cui noi abbiamo convenuto e di cui abbiamo parlato nel nostro incontro. Quindi Matteo, un caloroso benvenuto. Abbiamo condiviso molti obiettivi per il futuro e sono ansioso di collaborare con te per questo futuro. Non so se sono solo io, ma i primi ministri sembrano essere sempre più giovani con il tempo. Vabbè. Chissà cosa diranno alcuni, però insomma Hollande e Angela Merkel. Comunque, Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore della Gran Bretagna, buonasera. Buonasera a voi. Sentiamo molto male il telefono, ci vediamo di ripristinare il collegamento. Allora, al di là delle dichiarazioni formali, David, o quanto siamo giovani e quanto siamo belli, c'è una vera intesa, una così affinità non solo elettiva tra i due? Sì, c'è senz'altro un'intesa che si basa un po' anche sull'equivoco, cioè nel senso che l'intesa di semplificare, sburocratizzare l'Europa, che è uno dei temi forti di Cameron, incrocia inevitabilmente il cammino del nostro Presidente del Consiglio. Quindi su quello c'è un'intesa. Il problema è che quando Renzi dice non vogliamo più Europa, vogliamo un'Europa migliore, questo alle orecchie degli inglesi è la sinfonia prediletta, perché la interpretano come una disponibilità italiana, come dire, ampia alla riforma. E qui entriamo nelle tecnicalità, perché un'ampia disponibilità italiana alla riforma per gli inglesi vuol dire mettere mano ai trattati. Su questo Renzi non si è sbilanciato, è stato molto attento a evitare questa, diciamo così, trappola, che peraltro non è stata aperta ai suoi danni, però che poteva essere lì. Ricordiamo che questo è il punto su cui Hollande ha detto no, non c'è nessuna necessità di riaprire i trattati, sulla quale la Merkel ha invitato anche lei di rispondere. Per gli inglesi è fondamentale, perché dalla riapertura dei trattati può passare un'intesa da sottoporre al referendum di adesione e di uscita dall'Unione Europea, che gli inglesi prevedono di tenere entro il 2017. Allora, su questo faccio notare che il governo britannico nel frattempo ha fretta di vendere la Royal Mail, che è la più importante azienda postale del paese, privatizzata lo scorso anno. Beh, questa fretta è costata, secondo la Corte dei Conti inglese, 750.000 sterline in un sol giorno sulla privatizzazione, per il modo in cui sta fissata la quotazione delle azioni della Royal Mail. Però molti ascoltatori fanno notare, e su questo vorrei chiudere, Leonardo, che la Gran Bretagna, che ha una disoccupazione, quello che sentivamo dire prima da Renzi, si era partiti uguali, adesso loro sono al 7%, ha ridotto moltissimo il peso del settore pubblico proprio sotto Cameron, sia come dipendenti che come spesa complessiva. Sì, e loro sono riusciti a fare questo che era il loro progetto, cioè un travaso di occupazione dal pubblico al privato. Sono riusciti a creare più di 1 milione di posti di lavoro in questi anni, chiudendo interi settori del pubblico impiego. In alcuni casi aree venivano, come dire, del settore pubblico chiuse e date in appalto a privati per la gestione di servizi in outsourcing. Altre forme di flessibilità, qui il mercato del lavoro, come si sa, è profondamente sensibile, quindi flessibile, ha creato questo tipo di travaso. Sono riusciti a creare un'occupazione. Che tipo di occupazione, con quale grado di garanzie, eccetera, questo è tutto un altro discorso, però certamente sono riusciti a creare occupazione ed è uno dei fenomeni più straordinari, se vogliamo, del fenomeno economico inglese, che esce da una crisi profondissima, da un double dip recession, però è sempre riuscito a tenere livelli occupazionali elevati. Ed è secondo me questa la chiave, cioè la Gran Bretagna non si è limitata a ridurre di decenni, di più di 10 miliardi il peso della spesa pubblica e anche gli occupati, ha operato un travaso dove andava a risparmiare, a tagliare, generava nuovi posti però nel settore privato. Su questo Renzi parla e ha parlato di alleanza non ideologica. Penso che c'è un'alleanza non ideologica, non confusa, nel processo di riforma dell'Europa, ma per noi, per l'Italia, oggi è assolutamente importante che siamo noi a cominciare. È impossibile in Italia lottare contro la burocrazia di Bruxelles se noi ci mettiamo giorni per concludere un processo di amministrazione nel nostro paese. È impossibile per noi lottare contro le idee della burocrazia di Bruxelles se il nostro sistema è vecchio. E per questo motivo, in questo momento, in Italia è assolutamente importante cambiare istituzioni, cambiare la legge elettorale, cambiare la Costituzione. Ieri, forse voi lo sapete, abbiamo presentato la riforma, la legge di riforma costituzionale, che è molto importante perché questo rappresenta anche c'è il problema tra governo centrale e le regioni. Bisogna cambiare il ruolo del Senato, bisogna cambiare il ruolo dei politici. Insomma, per noi è possibile, a proposito di riforme in Europa, è possibile parlare di questo soltanto se prima siamo noi a cambiare. Questa è la sfida. Grazie Leonardo Maisano. Dopo il GR24 invece ascolteremo anche alcuni passaggi sul Jobs Act e oggi c'è stato anche un intervento del ministro Poletti e poi la borsa, non abbiamo dimenticato la borsa, ci mancherebbe, più 1,03% e le immatricolazioni 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, vedo molti messaggi sull'intervento di Domenico De Masi, il quale faceva un ragionamento sulla disoccupazione, sull'occupazione più sul medio lungo termine. Alcuni sono molto critici, dicono: ma insomma, se un imprenditore investe per comprare un macchinario è chiaro che qualcuno l'ha prodotto. Sì, il problema è capire se l'ha prodotto in Italia, però il ragionamento ha un suo senso. Altri dicono: finalmente De Masi ha rotto molte convenzioni, spiegando che bisogna anche oltretutto rimodulare l'orario di lavoro, con l'esempio che faceva del padre che esce la mattina, torna a casa la sera, lavora 10 ore, il figlio che resta a casa. È chiaro che noi con un programma di attualità ci occupiamo soprattutto, quando riusciamo facciamo anche dei ragionamenti di medio e di analisi, ma ci occupiamo soprattutto della cronaca e dell'attualità, e quindi in questo caso significa soprattutto Jobs Act. Allora, per fare il punto, il DL lavoro oggi, il ministro Poletti in audizione alla commissione lavoro del Senato ha detto il DL lavoro non precarizza, contesto l'affermazione di chi dice che verrà precarizzato il lavoro, vi saranno più controlli sulle false partite IVA e sui co.co.pro che saranno tanto più ingiustificati con i nuovi contratti a termine. In effetti il Jobs Act prevede che rispetto alla Fornero la durata massima dei contratti a termine senza indicare la causale passi da 12 mesi a 36 mesi, che il numero massimo di proroga del contratto a termine all'interno dei 36 mesi sia di 8 proroghe al massimo senza causale contro l'attuale una proroga al massimo, che la pausa che venga eliminata, la pausa tra un contratto e l'altro, la Fornero aveva previsto 10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto, e poi che mentre nella riforma Fornero veniva fissato un limite dai contratti collettivi, il limite all'utilizzo dei contratti a termine in ogni luogo di lavoro, con la riforma Renzi non verrà indicato un limite nel contratto collettivo, non oltre il 20% dell'organico saranno invece i contratti a termine. Poi sull'apprendistato, mentre la Fornero prevedeva l'assunzione condizionata alla conferma in servizio di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti al termine della formazione, nella riforma non vi sarà alcuna condizione per l'assunzione e cade l'obbligo della forma scritta per il piano formativo. Beh, che la riforma Fornero abbia messo troppe rigidità non lo dico io, lo dicono tutti gli operatori del settore, anche gli imprenditori, ma anche agenzie di collocamento. Veniamo invece a quello che ha detto oggi Renzi sul DL Lavoro, e attenzione, per quello che riguarda il DL Lavoro, ha detto, fatto notare Renzi, che ci sono 2100 articoli che si occupano del mondo del lavoro, il procedimento va avanti, tutte le mediazioni sono possibili, ma non si può cambiare l'impostazione di fondo. In Italia oggi ci sono 2100 articoli che si occupano di mercato, di regole sul mondo del lavoro. È normale che alla fine si finisce sempre di fronte a un tribunale. Oggi noi abbiamo in testa un codice del lavoro che abbia soltanto 50-60 articoli, che sia scritto anche in inglese, molto chiaro per gli investitori, e che consenta tempi certi. Per cui se fai un'operazione sai quanto ci impieghi, chi la fa e come sono le regole del gioco. Questo procedimento va avanti, ci sono naturalmente tutte le mediazioni possibili che stanno dentro il dibattito parlamentare, ma non puoi cambiare l'impostazione di fondo, che è quella di dare garanzie a chi non ne ha e di dare la libertà agli imprenditori finalmente di assumere, e di assumere in modo vero. Il percorso italiano è un percorso molto chiaro: riforme costituzionali, cambio delle regole del gioco nella pubblica amministrazione, modifica profonda del sistema fiscale e della giustizia civile e naturalmente modifica delle regole sul mercato del lavoro. Noi abbiamo un sistema in cui manca flessibilità. Vi ho ricordato prima delle statistiche. Queste statistiche sono statistiche che hanno visto crescere la disoccupazione nonostante che le regole che erano state fatte avrebbero dovuto migliorare e semplificare il quadro del gioco. Dunque, la ricetta di questi anni è sbagliata. La ricetta di questi anni sul mercato del lavoro ha prodotto più burocrazia e non ha risolto i problemi. Nel settore della formazione professionale in Italia hanno lavorato molto i formatori e poco le persone che avevano bisogno di lavorare. Quindi noi dobbiamo dare più semplicità e più rapidità. Beh, devo dire che poi vedremo quale sarà la forma definitiva del DL Lavoro, ma su questa analisi di Renzi personalmente sono molto d'accordo, cioè che la riforma Fornero abbia creato ancora più burocrazia e lacci e lacciuoli, e che se ne siano avvantaggiati molti formatori e pochi chi doveva essere formato, purtroppo è un dato che noi vediamo. Comunque adesso vorrei passare alla borsa. Ripeto, le buone notizie in questo periodo arrivano dalle esportazioni italiane, dallo spread e anche dall'interesse per investire in Italia. Anche oggi Milano si conferma la migliore in Europa, più 1%, più 0,80 a Parigi, più 0,50 a Francoforte, più 0,80 a Londra. L'America guadagna lo 0,27%, di nuovo molto forte il Monte dei Paschi, più 6,5% dopo l'annuncio fatto ieri dal nostro ospite, la presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Antonella Mansi, che la fondazione è scesa al livello che auspicava, il 5%, e non si spegne l'appeal speculativo. Molto forte però oggi anche Mediaset, più 5%. Guido Maurino, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Mediaset. Sì, per quello che riguarda Mediaset, che ha guadagnato oltre il 5% oggi, la motivazione è legata in parte ad alcuni report positivi degli analisti e in parte anche alle attese che il mercato ha su una ripresa dell'economia e che vede appunto i titoli editoriali in fra quelli preferiti dagli operatori. Oltre a Mediaset infatti oggi ha guadagnato bene anche RCS, e insomma tutto il settore del comparto editoriale dei media si è mosso al rialzo. Oltre a Mediaset poi parleremo di Fiat, ma male invece il Banco Popolare, e poi è volato il Banco di Desio. Sì, per quello che riguarda il Banco Popolare era nelle cose che il titolo potesse subire una flessione dopo aver guadagnato oltre il 15% ieri, il 24% nelle ultime tre sedute, in qualche modo era atteso che potesse avere un calo, anche i diritti oggi hanno ceduto il 3,07%. Va ricordato che appunto sono i diritti dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi approvato dal banco, che danno diritto a sottoscrivere 17 nuove azioni ogni diritto, per cui insomma sì, sì, un po', esatto. Per quello che riguarda invece il Desio. Banco Desio, oggi ha guadagnato 13%, ed è stato, come dire, uno dei temi che abbiamo visto nella giornata, cioè l'acquisto di banche anche minori, perché insieme al Banco Desio che ha guadagnato il 13,01%, anche Banca Finnat più 11,96%, sì. Credito Valtellinese l'8,33%, cioè gli operatori si stanno spostando anche su banche, e la Banca Popolare dell'Etruria più 10,70%, Banca dell'Etruria anche. Pop Sondrio più 6,80%, no? Sì. È tutto un comparto delle banche considerate più piccole, banche minori, che oggi ha vissuto una buona giornata e che anche negli ultimi giorni comunque si è mosso bene. Ecco. Si è mossa bene anche la CIR, e quindi il gruppo dei Benedetti, dopo che la controllata Sorgenia, sappiamo che c'è oltre un miliardo e tre mi sembra, di esposizione nei confronti delle banche, ha annunciato la risoluzione di un contenzioso con le banche. Sì, in realtà la vicenda è ancora in divenire, perché se ho ben visto poi la correzione è stata nel dire attenzione, stiamo lavorando, le banche creditrici, su un'ipotesi di operazione alternativa che potrebbe partire anche nel caso in cui alcuni azionisti, ossia CIR e Verbund, non intendessero partecipare alla manovra, no? Di ristrutturazione. Sì, in questo momento diciamo che Sorgenia ha risolto la crisi di liquidità, la società aveva annunciato che a fine marzo poteva trovarsi una situazione di crisi di liquidità, anche per il fatto che le banche ovviamente non erogano più credito in una situazione in cui oltre agli 1,9 miliardi di debiti c'è una trattativa sulla ristrutturazione che ancora non ha raggiunto un punto d'accordo. La società ha già detto sostanzialmente: non vi preoccupate, la crisi di liquidità possiamo superarla attraverso piccole operazioni, si parla di piccole cessioni di impianti fotovoltaici piuttosto che di autorizzazioni eoliche in Francia. Questo, comunque ha precisato Sorgenia, è una soluzione tampone che andrà poi definita meglio nell'accordo, certo, con le banche, che rimane comunque fondamentale. Bene anche Ferragamo più 3,5, Intesa più 3, Autogrill più 2,80 come Tolz, Mediolanum più 2,5, Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 2,30, World Duty Free più 2,1, Unicredit più 1,5 come Atlantia. Negativa invece Campari dello 0,70, G-Tech dello 0,50, Pop Milano dello 0,27, peggior titolo Soft Strategy meno 3,60 e poco altro. Grazie a Guido Maurino, Radio Colli sulle 24 ore. Molto bene anche Fiat oggi, che è il quarto miglior titolo, più 3,73%. Ne parleremo dopo il traffico, perché sono usciti i dati sulle immatricolazioni di marzo. Allora, le auto a marzo in Italia hanno fatto un mese ancora positivo, quasi il 5% in più di immatricolazioni, più 4,96% rispetto a un anno prima. Però Fiat come gruppo ha immatricolato il 2,80% in più, quindi meno della media del mercato, con la conseguenza che la quota Fiat è scesa dal 28,7% dell'anno scorso, del marzo 2013, al 28%. Eppure il titolo festeggia, festeggia forse perché i dati Fiat Chrysler sono molto buoni negli Stati Uniti. Le vendite del 500 negli Stati Uniti hanno fatto più 24% a marzo, il miglior mese dal 2011. La Chrysler ha fatto più 13% e comunque insomma tutto è andato meglio degli analisti. E questo è il motivo per cui Fiat festeggia in borsa nonostante un risultato sotto la media in Italia. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera, la risposta. Buonasera, penso che sia questo il motivo. D'altra parte anche il, diciamo, il risultato non con il mercato, al di sotto della performance del mercato in Italia, è un po' scontato, è attribuibile al fatto che la gamma non è stata rinnovata, ma Fiat dovrebbe provvedere in tempi relativamente brevi e quindi anche sul mercato italiano, potrebbe essere, su quello europeo potrebbe esserci un recupero. Ecco, per il resto gli altri marchi come sono andati? Mi riferisco all'Italia chiaramente, Gianprimo. Beh, gli altri marchi sono andati un pochino meglio, complessivamente chi tiene bene è il marchio Fiat. Non tiene affatto bene il marchio Lancia Chrysler, che è quello che soffre di più per la carenza di modelli, perde circa 7%, Alfa Romeo guadagna l'1,44% e Jeep Dodge, che è un marchio che vogliamo considerare italiano, cresce addirittura del 57-17%. E sui concorrenti? Sui concorrenti c'è un risultato molto sorprendente di Renault, che cresce addirittura del 58,3%, e poi Skoda 42, Volvo 27, questi sono i marchi naturalmente che fanno volumi abbastanza importanti, Opel il 22, Dacia il 22, Suzuki il 18, Audi il 13%, Peugeot il 12, Citroen il 10, quindi direi è un mese che è andato decisamente molto bene per molte case. C'è qualcuno che è in difficoltà, ad esempio Ford perde il 2,46, Smart il 6,28. Adesso io non vorrei tornare su una vecchia polemica, però voglio dire, i numeri che tu hai ricordato, Renault più 58, Skoda più 22, Opel mi sembra bene, no? Più 18, adesso da memoria, sono tutti concorrenti del gruppo Fiat. Allora, evidentemente il mercato, anche in Italia, venivamo da minimi, è ripartito. Noi abbiamo sempre sentito Marchionne dire che non aveva senso investire due anni fa perché il mercato era asfittico, era depresso, e però bisognava prepararsi quando sarebbe ripartito. Il mercato forse è ripartito, ma i modelli? I modelli non ci sono ancora, quindi Fiat paga questa politica che evidentemente sul mercato italiano e sul mercato europeo non è stata vincente, mentre invece i gruppi che hanno investito molto, anche perché in novità, anche perché dovevano operare in mercati come ad esempio quello cinese, quelli americani, quelli nei paesi emergenti, dovevano operare, che dovevano lanciare in continuazione nuovi modelli, sono premiati sul mercato italiano. Va bene, mi fermo qui, non voglio aggiungere altro, nel senso che poi i dati parlano molto più di tante analisi. Evidentemente la Fiat si è presa un po' in ritardo. Ieri abbiamo parlato del piano industriale della Fiat, quello annunciato appunto da Marchionne e John Elkann, che entro il 2018 faremo oltre 6 milioni di vetture. Ma insomma sono quasi è una proiezione a nostro avviso quasi tutta ormai sull'America, e mi sembra che sull'Italia i modelli manchino. Vedremo poi quando arriveranno e se forse non si potrà dire che sono arrivati un po' troppo tardi. I dati ora come ora sembrano andare in questa direzione. Grazie Gianprimo Quagliano. Ultimo tema, non perché sia il meno importante, la troica in Grecia e le dichiarazioni abbastanza positive di Mario Draghi. Dice il presidente della Banca Centrale Europea: in Grecia ci sono i primi benefici del piano, non bisogna sciupare i progressi, andare avanti con le riforme, c'è ancora molto da fare. Poi aggiunge: sulle banche dell'area euro è troppo presto per dare una valutazione dei singoli sistemi bancari. Una cosa che le persone dovrebbero ricordare è che molto denaro è già stato immesso nel sistema bancario ovunque nell'area euro. Guardando semplicemente agli ultimi sei mesi, si nota che moltissime banche hanno ricapitalizzato, hanno venduto asset, hanno rafforzato e migliorato di molto le loro posizioni di capitale. Quindi molto è stato fatto e molto si sta facendo anche in questo momento. Il vertice Eurogruppo infatti oggi si è tenuto ad Atene, dove è arrivato via libera a altri 8 miliardi e 300 milioni di euro, di cui 6 miliardi e 300 milioni entro fine aprile. Vittorio Darold, inviato da Sole 24 Ore ad Atene, buonasera. Buonasera a voi. Ma stavano tutti celebrando così i timidi segnali di risveglio o veramente è cambiata la rotta per quello che riguarda la Grecia? No, effettivamente c'è un cambiamento, un ottimismo. Proprio nella notte tra domenica e lunedì il governo ha approvato tutta una serie di riforme strutturali che erano state suggerite dall'OCSE per le liberalizzazioni delle professioni, la vendita dei farmaci da banco, oltre che nelle farmacie anche nei supermercati, una ricapitalizzazione delle banche greche che erano state particolarmente colpite dall'haircut un anno fa. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che fanno vedere come la Grecia dovrebbe riprendere. Quest'anno si prevede uno 0,6 addirittura di crescita e l'anno prossimo del 2,9%, quindi molto più dell'Italia. Naturalmente resta ancora il problema della tenuta della, diciamo così, stabilità politica. Tutti guardano con una certa apprensione alle elezioni europee, dove il partito di governo Neodemocrazia potrebbe essere superato dal partito di opposizione di sinistra Syriza, una sinistra dura e pura, molto contraria non all'uscita dell'euro ma a ridiscutere i termini del salvataggio, proponendo una moratoria nei pagamenti e ad esempio la riassunzione dei dipendenti pubblici licenziati o il salario minimo. Questi sono i veri problemi e per questo che questo Eurogruppo e Ecofin informale è venuto proprio qui ad Atene per dare questo sostegno e scommettere sulla ripresa della Grecia, e che si prevede addirittura prima di Pasqua dovrebbe tornare, secondo fonti informali del governo greco, sul mercato. Ricordiamo che il decennale greco era solo un anno fa al 30%, oggi è al 6,3%, quindi Atene vorrebbe tornare sul mercato con un'emissione di un bond a 2 miliardi al 6%. Grazie anche a Vittorio Darold. Sì, fa impressione, è vero che la Grecia è un altro scenario, però che la Grecia dovrebbe tornare a crescere, anche la Grecia più di noi. Focus Economia termina qui, domani torneremo a raccontarvi dalle 17 in poi un'altra giornata economico-finanziaria. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.